perrinha. Lasciami stare tranquilla. Non ti voglio più vedere. Sei stato troppo cattivo. Via di qui. Via di qui. Via di qui. Porco che sei un porco. Via di qui. Via di qui. Via di qui. Porca miseria. Porco, che sei un porco.